chiunque tu sia, che a prodevere tanto decesti, che pretendi forse allo sposo usurpato aggiunger nuovi insulti. Conosci prima il cor da stella e apprendi che non mi chiama al trono, o brama di regnare, o moglie affetto, impegno dei miei detti. Ecco la mano, saprà Asteria spiacere al tuo hermano.